capiti. E allora, dopo no, no, non c'ho tempo sul passo, perché non lo trovo mai, quando passo io non c'è lì, rientro verso le 10 del pomeriggio, e io di sera anche un po' che andare a cercare da due capelli. Se la trovo il sabato, di domenica, mattina, se no non so fare niente. Thank you. ingombrante, no, non è molto ingombrante. Secondo me, se uno c'è a posto, lo può mettere anche un po' giù così, perché non ha radiale, non ha niente, e fai quella taratura sulla spirale, lavora a massa, cortocircuitata, non ha rottura di palle, e ti dico che funziona bene, funziona benissimo, arriva molto bene, ma... Falchieri prendeva da bene.